Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come già ricordavano i nostri GR, la bozza del decreto che dovrebbe a questo punto arrivare nel fine settimana per rimborsare 40 miliardi finanziati con titoli di Stato sui 90, addirittura l'ABI dice 100 miliardi che la pubblica amministrazione nel suo complesso, quindi a livello centrale ma anche a livello locale, deve alle imprese italiane da anni, almeno in alcuni casi, come abbiamo raccontato oggi nel nostro Radio Day, raccontando storie nei GR principali di imprenditori e storie clamorose, perché le avete ascoltate. Ci sono imprenditori che hanno dal 20 al 15% del loro fatturato che deve essere ancora incassato dalla pubblica, e quindi pagato dalla pubblica amministrazione, mentre ovviamente gli obblighi fiscali, quelli non conoscono dilazioni, e da questo punto di vista più volte si è detto la via più seria e corretta in un paese sarebbe il credito fiscale, il credito d'imposta. In realtà su questo il governo si sta muovendo in maniera un po' diversa, perché i 40 miliardi in 2 anni, 20 quest'anno e 20 nell'anno prossimo, saranno reperiti mediante l'emissione di titoli di Stato. Questa è l'ultima versione della copertura. E i maggiori interessi sul debito che verrà emesso per finanziare i debiti della pubblica amministrazione, perché emetteremo debito, saranno pagati con corrispondente riduzione lineare, si legge, delle spese rimodulabili dei ministeri, quindi tagliando le spese rimodulabili dei ministeri, escluso il fondo sviluppo e coesione. Questo per quello che riguarda i debiti. Tra l'altro, il Tesoro vigilerà sul pagamento dei debiti, e nel caso in cui vi fosse uno sforamento è pronto ad intervenire con un taglio della spesa prevista o con l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti. Oltre ai 2 miliardi per gli enti locali arriva anche un fondo da 8 miliardi, in realtà sono 3 quest'anno e 5 l'anno prossimo, per regioni e province autonome. Quelle che non possono fare fronte ai pagamenti diversi da quelli finanziari e sanitari, inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, possono chiedere al Tesoro entro 15 giorni un anticipo per pagamenti maturati al 31 dicembre del 2012, e l'anticipo sarà dato secondo criteri di virtuosità. Questa mi sembra una cosa importante, cioè le regioni più virtuose, da quello che capiamo, dovrebbero essere avvantaggiate. Anche il capo economista dell'OCSE, Piercarlo Padoan, come ieri già disse il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ritiene che l'uso del deficit per restituire soldi arretrati dalla pubblica amministrazione alle imprese sia uno stimolo importantissimo e diretto all'attività economica, perché evita che tantissime imprese sane escano dal mercato per problemi di liquidità. Mi sembra che su questo vi sia una condivisione unanime a OCSE e Banca Centrale Europea. Questo sarà il tema di apertura. Dopodiché ci occuperemo però anche di altre notizie, perché mentre il governo annuncia questo, oggi scopriamo, tra virgolette, che nel quarto trimestre del 2012, e quindi nell'ultimo periodo dell'anno scorso, la pressione fiscale ha toccato un nuovo record assoluto, il 52% del PIL. La media annua, sempre a record, si attesta al 44%, è un punto e mezzo in più rispetto all'anno precedente, e il dato è dell'Istat. Il deficit migliora nel 2012, si è attestato al 2,9%, quindi contro il 3,7% del 2011, sotto il livello accettato dall'Europa, che è il 3%, la soglia cosiddetta di Maastricht. È migliorato, e di questo va dato atto al governo Monti, che spesso abbiamo criticato per altri elementi. È migliorato l'avanzo primario, quindi la differenza tra entrate e uscite prima di pagare interessi sul debito e altre amenità. È migliorato ed è pari al 2,5% contro l'1,3% del 2011. Questo è importante perché è il termometro della salute di uno Stato prima di pagare sostanzialmente gli interessi sul debito, e quindi vedere, come se tu non avessi debito, qual è l'andamento di entrate e uscite. Ed è un andamento positivo, nel senso che c'è un avanzo, ci sono più entrate che uscite, pari al 2,5% del PIL, che all'incirca vuol dire qualcosa come 40 miliardi, 38 miliardi a spanne, ma ricordando che più o meno un punto di PIL sono 14-15 miliardi di euro. Questo per quello che riguarda i conti pubblici italiani. Poi ci occuperemo anche, se ce la facciamo, invece di una polemica che riguarda direttamente i produttori di petrolio, le grandi compagnie anche di distribuzione, l'inchiesta avviata sull'ipotesi di cartello per rendere i prezzi della benzina e del gasolio alla pompa vischiosi, cioè rigidi, quando devono scendere, non certo quando devono salire. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook per contattarci durante la diretta. Altro tema che tratteremo è un tema che, presi dalle vicende italiane e europee, abbiamo trascurato in questi giorni, ma ci sono due sentenze molto importanti che arrivano dall'India, anzi una è una sentenza, l'altra è un ricorso, e che riguardano i due colossi al mondo nella farmaceutica. Il tema riguarda infatti il colosso Novartis e il colosso Merck. Sostanzialmente vi erano stati dei ricorsi da parte di questi produttori di farmaci contro alcuni concorrenti indiani che andavano a produrre e mettere sul mercato prodotti analoghi ma in versione low cost, con gli stessi principi attivi. Si trattava in un caso di cure per malati anche di cancro, con cure con principi attivi identici ma con prezzi del 20-30% più bassi. La Corte di Giustizia indiana ha dato ragione ai produttori low cost, con una grossa, diciamo, arrabbiatura, diciamo così, dei produttori di farmaci. Il tema però c'è tutto, perché soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dove il potere d'acquisto è nettamente inferiore al nostro, e l'India resta un paese, per quanto in crescita, con ampie sacche di povertà, il tema è tra dove poniamo il confine tra il diritto che ha il produttore di farmaci, che investe miliardi in ricerca, nel avere un ritorno economico di questi investimenti, perché per sviluppare un farmaco ci vogliono obiettivamente anni e tantissimi soldi, però allo stesso tempo anche dove poni il confine con la necessità per alcuni tipi di farmaci di essere accessibili a ampie fasce della popolazione. In un caso si tratta di un farmaco anche per l'HIV, per l'AIDS, a ampie fasce della popolazione a prezzi più bassi. Ne parleremo nel corso del programma. Adesso però la borsa, prima di tutto, e poi le altre notizie in breve. Milano è l'unica tra le borse principali ad essere positiva, più 0,76%. Perché? Perché vanno bene le banche oggi, più 5,80% Mediobanca, più 4,80% al Banco Popolare, più 3,50% Ubibanca, più 2,80% Unicredit, più 2,30% anche Intesa San Paolo. Generali più 1,30%, Popolare di Milano più 1,25%. Fronte opposto invece Mediaset meno 2%, come ST Microelectronics, Tenaris meno 1,70%, Prismian meno 1,40%, Salvatore Ferragamo meno 1,40% anch'esso, Tod's meno 1,20%, Luxottica meno 1,1%. Rapidamente le altre notizie. Allora, andiamo avanti con le altre notizie e parliamo subito dei dati che arrivano dagli Stati Uniti, perché i dati che sono arrivati sull'occupazione hanno deluso, e infatti non è un caso che in questo momento il Dow Jones perda lo 0,70%. Sono calati infatti tutti gli indici già prima dell'apertura, ma anche le quotazioni del petrolio, e poi ne parleremo. Il petrolio è sceso, diciamo, a 92 dollari al barile, meno 0,7%. Cosa è successo in America? L'economia americana ha creato a marzo 88.000 posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è comunque sceso al 7,6%, è sotto le attese degli analisti, che scommettevano su una creazione di almeno 190.000 posti di lavoro, quindi quasi il doppio. Buoni invece i dati che arrivano dalla Germania. Gli ordini all'industria sono, infatti, gli ordinativi all'industria sono un anticipatore di quello che può essere anche il fatturato. Sono in decisa crescita in Germania, più 2,3%, contrattese dell'1,1%, questo a febbraio. E però segnalo anche uno studio abbastanza interessante, oggi ne parlano molti giornali, ma è uno studio realizzato dal più grande hedge fund del mondo, quindi il più grande fondo speculativo a livello mondiale. Pensate che gestisce 130 miliardi di dollari e ha avuto anche buoni risultati nonostante la crisi, e si chiama Bridgewater. Lo guida un italo-americano, tra l'altro, Ray Dalio. Il rapporto è stato distribuito in una conferenza del centro studi di George Soros, che è uno dei più grandi investitori, anche filantropi, al mondo, e nel corso di un convegno ad Hong Kong che si è svolto ieri. Allora, che cosa dice questo studio? Beh, dice osservare l'involversi, quindi l'involuzione, non l'evoluzione, della situazione politica italiana ci spinge a chiederci se il paese possa far esplodere l'euro. Se qualcosa dovesse andare storto, recita lo studio, l'impatto sull'intero sistema finanziario sarebbe enorme, un ordigno nucleare per l'euro. Gli analisti di Bridgewater comunque ritengono poco plausibile che un paese dell'importanza dell'Italia voglia gettarsi in questo burrone, scrivono testualmente, ma osservano che la situazione politica italiana, unita alla più forte recessione e depressione del dopoguerra, questa stiamo vivendo, suggerisce che il poco plausibile sia comunque una possibilità. La dà al 5/10%. Che in Italia emerga un governo che non intende restare nell'euro. Se così fosse, vi è quindi una possibilità del 5/10% che l'euro salti. È comunque una possibilità, conclude lo studio, che merita una grande attenzione. Veniamo all'Italia invece, perché da un lato la Consob, che è l'autorità di vigilanza dei mercati, ha dato una multa per complessivi 11 milioni e 300 mila euro a Salvatore Ligresti, Giancarlo De Filippo e Nicola Lucchini per manipolazione operativa sul titolo Premafin, che è la finanziaria che controllava il gruppo Fondiaria Sai quando era in mano alla famiglia Ligresti, le cui quotazioni sono state artificiosamente sostenute in borsa tra novembre 2009 e novembre 2010, una multa da 11 milioni e 3, mentre per quello che riguarda il famoso rigassificatore di Trieste, quindi cambiamo tema, oggi è stata sospesa dal ministro dell'ambiente Corrado Clini la valutazione di impatto ambientale e sostanzialmente serve un nuovo sito, dice Clini, da individuare per gas naturale, quindi per il rigassificatore di Trieste. Nel frattempo, sempre sulle notizie di economia, è scattata la protesta già ieri in serata, devo dire, alla Piaggio di Pontedera in provincia di Pisa, contro la richiesta che l'azienda ha fatto agli operai di restituire parte del conguaglio del premio di produzione del 2012. Gli operai dovrebbero restituire 725 euro rispetto ai 1200 euro già ricevuti nel 2012 come premio di produzione, questo per i dipendenti delle due ruote, e i lavoratori del reparto motori dovrebbero rendere 177 euro, quelli delle tre ruote 475 euro. Ancora sull'economia reale, due notizie, tutte e due non belle. Partiamo dalla più brutta: 260 esuberi, la notizia l'hanno appena battute le agenzie, su 675 lavoratori per i due stabilimenti italiani del gruppo Candy a Brugherio, Monza Brianza e a Santa Maria Oe a Lecco. Lo si apprende da fonti sindacali. In particolare, gli esuberi dai 150 finora dichiarati sarebbero passati a 170 a Brugherio e 90 nel sito appunto in provincia di Lecco a Santa Maria Oe. Mentre per la vicenda Bridgestone, lo stabilimento di Bridgestone che produce gomme, pneumatici, a Modugno Bari, in provincia di Bari, Bridgestone avrebbe posto due opzioni. La prima riguarda il mantenimento dello stabilimento attraverso una ristrutturazione e un abbassamento dei costi. La seconda invece è alternativa, sarebbe la vendita dell'impianto. Si è svolto infatti oggi un incontro tra i vertici della Bridgestone al Ministero dello Sviluppo Economico, a cui hanno partecipato anche il governatore della Regione Puglia Nichi Vendola e il sindaco di Bari Michele Emiliano. Ancora sulla tenuta occupazionale del paese, chiusura di 25 siti in Italia e in Gran Bretagna per il gruppo Selex, il piano di riassetto è Selex IS. Praticamente sono 2.529 esuberi tra Italia e Gran Bretagna. E adesso una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Purtroppo ve l'hanno già data i nostri GR. Voi sapete che in questo spazio, più o meno a quest'ora, noi raccontiamo sempre gli sprechi della pubblica amministrazione a livello locale, centrale, regionale, comunale, nazionale. Lo dico perché è brutto unire le due cose, ma qualcuno di voi si ricorderà l'iniziativa che Radio 24 lanciò un anno fa, Disperati Mai, cercando di ascoltare gli imprenditori o comunque le persone, in quel caso erano soprattutto imprenditori in difficoltà. Ebbene, non so da che parte prenderla, però insomma è veramente tragico quello che è successo a Civitanova Marche, ma voglio leggerla perché comunque in un programma che si occupa di economia reale, non di finanza immaginifica, anche questa è una notizia che dà il posto della situazione. Si sono impiccati due coniugi a Civitanova Marche che sembrano non avessero neppure i soldi per pagare l'affitto, abitavano in un appartamento. E l'uomo aveva lavorato come impiegato in una ditta calzaturiera e non aveva trattamento pensionistico. Sembra che ricevesse, i due coniugi ricevessero con la pensione della moglie tra i 400 e i 500 euro al mese. Voi capite bene la difficoltà. La coppia non riusciva a tirare avanti, avendo appunto come unica fonte di reddito la piccola pensione della moglie. La cosa ancora più drammatica è che si è suicidato anche il fratello della donna, di 68 anni, una volta conosciuto la morte, venuto a conoscenza della morte della sorella, si è gettato in mare. Allora io dico, senza nessuna retorica, perché non è il caso in questi casi, però, ma che paese è un paese in cui insomma, due coniugi cercano di vivere con 400-500 euro al mese? Possiamo iniziare a pensare a politiche anche di welfare serie, eliminando gli sprechi e quant'altro, ma attivando dei meccanismi di sopravvivenza per chi, voglio dire, nella vita va fatto l'artigiano come nel caso della moglie e l'impiegato in una ditta calzaturiera. Cioè non stiamo parlando di persone che hanno dilapidato soldi, fatto fallimenti, sprecato, rubato e quant'altro. Possiamo creare un fondo di solidarietà, lo può fare anche la politica, chiedo, perché è veramente allucinante leggere una cosa del genere. Comunque. Piacere, Luigi delle Bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Sono un eroe. Allora, gli eroi di cui stiamo parlando, lo dico anche qui senza retorica, sono le migliaia di imprese che aspettano in alcuni casi da anni, come stiamo raccontando nel nostro Radio Day da questa mattina, di essere pagate banalmente dalla pubblica amministrazione, da quello stesso Stato, lo dico anche qui senza retorica, che però è molto puntuale quando si tratta di riscuotere i soldi, o meglio quando li deve riscuotere il fisco. La vicenda è arcinota, la prima bozza a mio avviso per fortuna è stata bloccata perché prevedeva aumento dell'IRPEF regionale, addirittura il blocco per i comuni che avessero, o le regioni che avessero chiesto un aiuto allo Stato per pagare i loro fornitori il blocco della spesa per 5 anni, sembra che sia uscita una bozza un po' più, fatemi usare il termine, ragionevole. Perché i debiti, che in realtà su 90 miliardi per 45 miliardi sono scaduti da oltre un anno, e riguardano in primo luogo la sanità 40 miliardi, poi l'edilizia 20 miliardi, poi l'high tech 5 miliardi. Nel passato il governo ha realizzato ben 4 decreti, ma fino adesso di rimborsi sono arrivati solo 3 milioni su 70 miliardi almeno di debiti. Come spiega oggi il Sole 24 Ore, questa misura, iniziare a rimborsare anche e soprattutto utilizzando i soldi che i comuni virtuosi hanno, dovrebbe andare a favore soprattutto delle città del nord, che hanno comuni con maggiore cassa. Milano ha debiti nei confronti dei vari imprenditori per 2 miliardi e 900 milioni e 860 milioni che potrebbero essere subito utilizzati. Roma ha 3 miliardi e mezzo di arretrati come comune, ma ha 370 milioni da spendere, quindi quasi un decimo. Napoli ha 1 miliardo e 600 milioni di debiti, ma è senza disponibilità di cassa. In tutto però i comuni italiani, chiaramente quelli virtuosi, hanno in cassa 14 miliardi di euro. Il 50%, 56% è nel nord, il 13% al centro, il 19% al sud e il 12% nelle isole. Allora, Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, eccomi. Ti sentiamo un po' basso. Allora, sì. Dino, la bozza è una bozza. Intanto vorrei capire i tempi. Ti risulta confermato che domani potrebbero arrivare, cioè, dalla bozza si passerebbe ai decreti come Consiglio dei Ministri e poi andiamo nel contenuto? Non c'è ancora una convocazione ufficiale, ma comunque le indiscrezioni che abbiamo raccolto parlano di un Consiglio dei Ministri che dovrebbe aver luogo domani mattina attorno alle 10.30, quindi insomma almeno da questo punto di vista una piccola certezza c'è, considerando che i tecnici stanno ancora lavorando, le bozze che stanno affluendo sulle nostre scrivanie sono diverse da quelle iniziali, per fortuna, perché come ricordavi tu, la prima versione del decreto presentava moltissime incongruenze. Adesso le stanno correggendo, fermo restando che permane un aspetto relativo alle coperture finanziarie, la cui definizione evidentemente la ragioneria sta predisponendo in queste ore, ma insomma più o meno siamo vicini alla dirittura finale, almeno dal punto di vista del decreto. Poi ci vorranno i decreti attuativi, si aprirà la fase di corresponsione attraverso le diverse modalità, perché questa è un'operazione molto complessa che impatta sul debito, sul deficit, riguarda i comuni virtuosi, i comuni non virtuosi, riguarda la sanità e dunque le regioni, e molte regioni hanno problemi di eccesso di spesa sanitaria e dunque per ogni regione andrà valutata la situazione. In ogni caso, se tutta questa operazione riuscirà ad andare in porto, credo che entro l'estate potremo cominciare a ragionare effettivamente in termini di maggiore liquidità per questi 20 miliardi quest'anno, 20 nel prossimo anno, che sono un anticipo di una quota molto più rilevante che, come ricordavi, è di almeno 90 miliardi, e qui siamo alla prima della anomalia tra le mille, che ancora tutt'oggi non si è in grado di avere una esatta stima dell'ammontare di questi crediti commerciali delle amministrazioni pubbliche. Si dice 90, qualcuno dice 100. Sì, ieri l'ABI, le banche italiane, hanno detto che sono più vicini a 100 che a 90 miliardi, no? Appunto, quindi la stima della Banca d'Italia di qualche settimana fa era 71, poi è stata aggiornata a 91 e secondo me siamo molto vicini ai 100 miliardi, è una cifra spaventosa. Si tratta di un'anomalia storica del nostro paese che va sanata in fretta, e lo abbiamo detto molte volte anche a Radio 24, comunque è un obbligo da onorare, qui non è un optional, si tratta di debiti contratti che vanno onorati. Poi, osservato questo, come sempre nel nostro paese ci sono mille problemi, diciamo, di attuazione che derivano dalle situazioni diverse che si presentano, dagli impicci burocratici, appunto dal fatto che non si sappia esattamente quanto i singoli comuni debbano pagare, quanto le regioni, quanto i professionisti, perché qua la partita riguarda un po' tutti. Comunque è positivo che finalmente si stia vicino alla, almeno a questa prima parte del traguardo finale. Poi ricordo che per fortuna è entrata in vigore la direttiva europea, che è stata recepita prontamente dal nostro paese, che dovrebbe appunto limitare a 30 giorni, speriamo che questo termine sia rispettato, il limite massimo per pagare questi debiti. Beh, comunque diciamo di positivo rispetto alla prima bozza c'è che intanto non toccano l'IRPEF regionale, l'addizionale IRPEF, no? In secondo luogo, scusatemi, che non c'è un meccanismo così punitivo per i comuni che si mettono a pagare, perché nella prima bozza addirittura poi il comune che pagava i suoi fornitori si vedeva bloccata qualunque tipo di investimento per 5 anni, no? Allora tu capisci che se un comune deve decidere se comprare gli autobus o pagare un fornitore, è ovvio che rischia di fare la prima piuttosto che la seconda, anche per un normale motivo di consenso elettorale. Un attimo, vi do una notizia in diretta, perché c'era un'offerta da ieri su Richard Ginori, non si capiva chi l'avesse avanzata, adesso lo sappiamo, è il gruppo Gucci che nei giorni scorsi ha avanzato una richiesta per partecipare all'offerta e per acquisire il marchio e le attività della Richard Ginori di Firenze, importante perché è una fabbrica che altrimenti fallisce con tutti i suoi dipendenti. Chiudo questa parentesi. Le altre novità più importanti: l'emissione di bot e anche il fatto che sostanzialmente verranno valutati di noi i comuni più virtuosi, nel senso che quando il comune deve pagare i suoi debitori, i suoi creditori, scusami, potrà rivolgersi a un fondo di a un fondo statale, però poi sarà a discrezione e si verrà scelti, se ho ben capito, quanto uno potrà attingere, verrà deciso sulla base del suo virtuosismo. Esattamente questo per quel che riguarda i comuni che sono, come si può dire, capienti, cioè che hanno in cassa la liquidità sufficiente a far fronte a questa prima operazione. Poi c'è tutta la parte che riguarda gli enti locali che invece non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi, come si vengono definiti nel decreto. Per questi secondi è prevista questa anticipazione di liquidità che verrà decisa entro il 15 maggio attraverso un fondo unico che sarà istituito presso il Ministero dell'Economia. Allora, questo fondo, che al momento è dotato di 2 miliardi per ciascuno degli anni 2013-14, servirà ad anticipare appunto liquidità attraverso, e questa è una delle novità della bozza che ormai credo che sia quasi definitiva, attraverso dei prestiti, chiamiamoli così, un piano di ammortamento con rate costanti con durata fino a 30 anni. Quindi qua è previsto un meccanismo abbastanza puntuale che dovrebbe consentire anche ai comuni non sufficientemente solvibili di far fronte a questa operazione. E poi c'è tutta la partita delle regioni, che ha richiesto ulteriori supplementi di istruttoria, perché le regioni appunto dovranno presentare, questa è una delle novità dell'ultima ora, un piano di copertura del rimborso e degli interessi, ma anche nel caso in cui fossero inadempienti, come recuperarli, certo, anche gli interessi di mora. Quindi si sta definendo un meccanismo differenziato a seconda dei soggetti coinvolti. Ecco, questa è la sintesi per chi ci ascolta, mm-hmm, perché diventa troppo complicato. Sì. Che però non è un'operazione a costo zero, questo va detto. Beh, no, anche perché i titoli di Stato comunque aumenteranno il bacino del debito. Ho visto appunto che gli interessi in più che dovremo pagare verranno trovati, i soldi verranno trovati nella parte rimodulabile della spesa dei ministeri, fatto salvo il fondo di coesione, per cui tagliando un po' la spesa dei ministeri. Grazie Dino Pesole, ripeto, è una bozza, ma dovremmo essere vicini alla parte definitiva, visto che il Consiglio dei Ministri dovrebbe poi approvarla domani. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento il Presidente degli Industriali dell'Emilia Romagna, Maurizio Marchesini, buonasera. Buonasera. Noi vi seguiamo da vicino, come seguiamo da vicino l'Aquila, ma anche la Maremma, cioè, come abbiamo seguito il Veneto, il Vicentino, soprattutto tutte le parti che hanno subito un disastro / dissesto nel caso vostro quello del terremoto. Dopo il meteo e la pubblicità, vorrei capire intanto un suo primo commento a caldo, perché, e poi voi ieri avete fatto un comunicato molto duro per sottolineare l'urgenza di risposte concrete, perché siete preoccupatissimi che non regga il sistema produttivo emiliano e romagnolo, che da solo vale quasi il 9% del PIL nazionale e quasi il 13% di tutto l'export. ...17:41 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso vorrei appunto sentire in chi il dramma, possiamo parlare di dramma nel ritardo dei pagamenti dello Stato verso le imprese, vista la situazione economica. È chiaro che i ritardi c'erano anche prima, ma prima l'economia cresceva, i fatturati pure, gli ordinativi anche, lo dico a chi scrive. Adesso, nel momento in cui tu hai banche che erogano credito con sempre maggiore difficoltà a essere buoni, che non ti scontano, diciamo, i crediti che tu vanti nei confronti dello Stato, in molti casi, lo Stato che non paga, le tasse e il giro di vita fiscale, e voi capite che è una tempesta perfetta. Comunque, un primo commento, Presidente Marchesini, visto che lei rappresenta tutti gli industriali dell'Emilia Romagna. Certo, ma guardi, intanto buonasera. Sono lieto di apprendere che si stanno facendo dei passi in avanti sulla liquidazione dei debiti dello Stato. Io mi auguro solo che non ci sia un ennesimo blocco nel momento in cui la Ragioneria dello Stato va a esaminare la copertura, insomma, perché diventerebbe veramente ridicola, insomma, la situazione. E sono anche felice di apprendere che perlomeno a livello di Bozza non si parla più di aumenti IRPEF, non si parla più di meccanismi negativi sui comuni che assolvono il loro dovere, perché di questo si parla, di pagare i fornitori. Io spero veramente che i tempi siano rispettati e che in tempi veramente brevi si arrivi a, in qualche modo, a eliminare questa anomalia tutta italiana di uno Stato che per primo dà il cattivo esempio, insomma. Questo per quello che riguarda appunto il certo. Rimborso. Devo dare una notizia, sì. O meglio una precisazione in merito alla tragedia di Civitanova Marche che raccontavamo prima. Non abbiamo nessuna conferma che il pensionato che assieme alla moglie si è suicidato e poi anche il fratello della moglie fosse un esodato. Molti ce lo stanno scrivendo, io però non ho nessuna notizia d'agenzia su questo. Sicuramente non percepiva la pensione e aveva lavorato come impiegato in un'impresa un'impresa calzaturiera. L'unica pensione era quella della moglie, 400-500 euro al mese. Però non vi posso dire cose che non ho verificato, abbiate pazienza, non sappiamo se rientrasse nella categoria degli esodati e non voglio fare partire una polemica, perché chiaramente partirebbe una polemica su questo. Appena abbiamo la conferma o la smentita ve la daremo. Torniamo invece a voi, perché voi avete detto, insomma, noi siamo un sistema Emilia Romagna solido, però ormai iniziamo a non reggere nemmeno noi, perché abbiamo tutti insieme di diverse pressioni. Allora, immaginiamo che il governo sblocchi questi 20 miliardi, quali sono i prossimi scogli? Perché avete fatto un comunicato ieri che era un grido di allarme, di dolore, ma anche, insomma, abbastanza forte. Prego, Marchesini. Guardi, qui la frustrazione del sistema produttivo emiliano-romagnolo, ma io intendo anche quello nazionale, è rendersi conto che c'è una ripresa generalizzata nel mondo e che certi paesi europei la stanno agganciando. E tutto questo a noi è interdetto perché la nostra situazione politica è fantasiosa, vogliamo usare questo termine. Quindi il nostro era un grido per dire alla politica: torniamo a occuparci delle cose vere, torniamo a occuparci di impresa, torniamo a occuparci di economia, occupiamoci della ripresa economica, smettiamo di dire solo dei no, cominciamo a dire dei sì e prendiamo delle decisioni. Direi che questa questione dei pagamenti della pubblica amministrazione verso le imprese private è paradigmatica. Cioè, stiamo trattando come una questione speciale una questione che dovrebbe essere completamente normale e assodata nella prassi, insomma. Ecco, questo era il nostro punto di partenza. Mi dica una cosa, nel rapporto col mondo bancario, fermo restando che le banche hanno sofferenze e incagli record, perché non sono istituti di beneficenza, Fermo restando che le banche lamentano che spesso o in molti casi la richiesta di finanziamento è per pagare spese correnti a breve, non per investimenti nel futuro, quindi è diverso prestare dei soldi a un'impresa perché paghi i fornitori o gli stipendi o prestarli perché costruiscono un capannone o aprono una nuova rete commerciale all'estero. Sta un po' migliorando perché Draghi ieri ha detto in conferenza stampa prenderemo delle misure, potranno prendere le misure per sbloccare questo problema per cui il credito che noi eroghiamo diciamo da Francoforte arriva alle banche ma poi dalle banche non arriva agli imprenditori. Questo è l'altro tema, cioè già i 200 milioni, 200 miliardi pardon, erogati alle banche italiane solo frazionalmente, in maniera veramente molto minima, sono arrivate alle imprese. Quindi è chiaro che bisogna far ripartire il circolo virtuoso. E bisogna fare, io dico sempre che in Italia manca una, in questo momento sta mancando una materia prima fondamentale che è la fiducia nel futuro, la speranza, e senza questo non riparte. Guardi che nelle nostre anche indagini presso gli imprenditori, soprattutto ovviamente quelli emiliano-romagnoli, c'è una grande voglia di fare investimenti, c'è una grande propensione all'investimento. Bisogna far accendere una scintilla, bisogna che comunque ci sia in qualche modo un'incentivazione. Il piano, il programma fatto da Confindustria per lo sviluppo prevedeva anche questi aspetti, quindi prevedeva anche incentivazioni reali, solide all'investimento. Guardi, si potrebbe anche pensare a qualcosa di veramente innovativo. Io ho fatto una proposta tempo fa a Parma. Ragioniamo in maniera diversa, diciamo che se un imprenditore, cerco di semplificare un po' il concetto, se un imprenditore fa un investimento che in questo momento non esiste, diciamo comprare una nuova macchina utensile per dire, per fare un esempio concreto, questa macchina utensile nel futuro produce un reddito, basterebbe che l'imprenditore già sapesse che su questo reddito futuro una parte è defiscalizzata. Sì. Quindi sto parlando di costi che non esistono di fatto per lo Stato, perché senza questa prospettiva questo investimento non esisterebbe. È chiaro che bisogna pensare anche in maniera un pochino innovativa, uscire un po' anche dagli schemi classici. Se vuole fare un po' il paragone potremmo farlo con certi territori europei o extraeuropei che offrono attrattività. Ecco, cerchiamo di fare la stessa attrattività al nostro interno. Sì, mi dispiace segnalarle che a quest'ora ci ascoltano anche molti direttori di banca. Mi ha detto, scrive un direttore di banca, dice: ho molti clienti che lavorano con la pubblica amministrazione, noi ormai non gli scontiamo più fatture della pubblica amministrazione, cioè non gli anticipano più le fatture da incassare più avanti, e nemmeno le società di factoring le accettano più. Complimenti. No, io trovo bellissimo un paese in cui la banca o l'azienda di factoring non si fida dello Stato, perché poi di questo stiamo parlando alla fine, no? Va bene così. Vediamo cosa arriverà dal governo. In bocca al lupo a tutti gli imprenditori emiliani romagnoli, chiaramente a tutti gli imprenditori italiani. Grazie al presidente di Confindustria Emilia Romagna, Maurizio Marchesini. Grido dolore fortissimo. Ieri. Di nuovo in diretta con Focus Economia, facciamo adesso la borsa e poi passeremo agli altri temi. Non voglio più parlare di Civitanova Marche, ma è un dramma vero. Devo dire una cosa perché stanno uscendo anche altre agenzie. In realtà sembra che la coppia, che abita per coincidenza nello stesso palazzo del presidente del Consiglio Comunale di Civitanova Marche, il quale Ivo Costamagna di recente aveva parlato con loro e li aveva invitati in comune per parlare con i servizi sociali. La coppia però aveva risposto che non l'avrebbe fatto, troppa vergogna dopo una vita di lavoro. Allora, la borsa con Ciao Condina. Borsa positiva oggi a Milano, mentre negative le altre borse europee, più 0,60% il FTSE MIB, meno 1,70% Parigi, meno 2% Francoforte, meno 1,5% Londra. e meno 0,70% il Dow Jones. Perché va bene l'Italia rispetto al resto d'Europa? Beh, soprattutto per l'andamento dei titoli bancari. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Mediobanca più 6, Banco Popolare più 4,40, Ubibanca più 4 quasi, Intesa San Paolo più 2,1, Unicredit più 2%, Monte dei Paschi più 1,1. E beh, come sappiamo il peso dei titoli bancari sul paniere principale in Italia è molto rilevante, questo pesa come nelle ultime settimane ovviamente in negativo quando i titoli bancari perdono terreno, oggi invece per una volta ha pesato in positivo, infatti come facevi giustamente notare tu, Parigi e Francoforte vanno a perdere quasi 2 punti percentuali, invece Milano recupera lo 0,6%, questa mattina ricordiamolo c'è stata la conferma da parte dell'agenzia di rating Fitch sull'outlook negativo per i grandi gruppi bancari italiani, ma nonostante ciò il calo dello spread, che è arrivato addirittura sotto 315 punti base, ha favorito sia le banche sia poi quelli che sono i gruppi maggiormente indebitati, per esempio quelli dell'energia. Ancora tra i titoli, lo spread come va, chiedono alcuni di voi, è a 323 punti, né bene né male, non so come dire, sopra i 300 ma non vicino a 340. Quello spagnolo è a 360 punti. Dicevo, altri titoli invece, per quello che riguarda Mediaset, meno 2%, e qui è cambiato il verso proprio, no? Sì, aveva iniziato bene sulle ipotesi, insomma c'erano indiscrezioni su una possibile cessione di un pacchetto, si parlava del 15% di Eight Towers, che altro non è che la società in cui che è controllata da Mediaset, in cui appunto il Biscione ha concentrato le torri di trasmissione di sua proprietà. Diciamo un'operazione che poteva essere simile a quella realizzata nei giorni scorsi da Generali su Banca Generali. Tuttavia appunto a seguito di queste indiscrezioni il titolo del gruppo è balzato subito del 2%, poi è arrivata una secca smentita, alla fine Mediaset ha chiuso tra i peggiori titoli, anzi il peggiore, meno 2,06%. Ancora tra i titoli citiamo ST Microelectronics appunto meno 2%, Tenaris meno 1,60%, però la notizia più importante forse riguarda il gruppo Telecom Italia, che chiude in rialzo dell'1%, ma soprattutto ha confermato di aver avviato contatti con il colosso telefonico Hutchison Whampoa e quindi Cina, contatti preliminari per lo studio di una possibile integrazione con Tre Italia. Il titolo si è mosso comunque? Assolutamente sì, perché questo comunicato che è stato emesso su richiesta della Consob all'incirca metà seduta ha subito spinto il titolo a un rialzo superiore al 4%, poi andando avanti nel corso della giornata alla fine il titolo ha un po' ceduto e realizza, alla fine ha chiuso a più 1%, comunque si tratta di una, insomma, di una nota importante, perché ammette ufficialmente dei contatti che nel prossimo CDA poi potrebbero portare a un'ulteriore evoluzione della vicenda. Ancora tra i titoli, non è andata, cioè non sta andando bene proprio questo debutto in borsa di Moleskine. No, oggi diciamo ha perso non il 5%. Non sono fortunati, è a 2 euro per azione. I multipli con cui quotava forse erano un po' alti, no? Sì, facile dirlo adesso, per carità, però. Sì, diciamo che comunque le richieste erano state apparentemente buone. Certo, oggi gli operatori fanno notare che tutto il comparto del lusso è andato male, e al comparto del lusso può essere comunque associata la società, visto poi quanto costano queste agendine. Per esempio Ferragamo ha perso l'1,3%, Brunello Cucinelli alla fine della seduta perdeva oltre il 2%, la stessa Luxottica ha perso l'1,1%, insomma ieri aveva chiuso poco sotto la parità, oggi certo Moleskine ha perso il 5% e non è stato il migliore dei debutti fino adesso. Allora, migliori e peggiori in assoluto, SEAT pagine gialle meno 6,25%, Mediobanca invece più 6%, bene anche Acea più 5, Sorin più 5,5, Banco Popolare più 4,40 come risanamento, tra chi ha perso invece anche BB Biotech meno 5,30%, segnalo oggi anche un po' di vendite barra realizzi sulla moda, no? Cioè, perché Ferragamo ha perso l'1,40, Luxottica sì. 1,20 e anche Brunello Cucinelli forse, no? Sì, assolutamente, ha perso più del 2%, come dicevamo prima, oggi il lusso è stato un po' preso di mira. Beh, è un comparto che comunque è stato ben premiato nelle ultime settimane, nonostante i ribassi della borsa. Grazie a Ciao Conner, buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Allora, la vicenda di Civitanova Marche, alcuni siti, vedo adesso quello della Stampa, raccontano, dicono che l'uomo in realtà fosse un esodato, cioè avesse perso il lavoro senza avere ancora diritto alla pensione. La moglie, come confermavo anch'io, aveva una modestissima pensione tra i 400 e i 500 euro, non riuscivano nemmeno a pagare l'affitto. Erano tutti e due lavoratori, aveva lavorato l'uomo come impiegato in una ditta calzaturiera e invece la pensione la riceveva la donna in quanto artigiana, una coppia senza figli. Staremo a vedere, sarebbe, lo dico con molta tranquillità, sarebbe ancora più grave, già la vicenda è tragica, se dovessimo avere la certezza definitiva che l'uomo era un esodato, perché il modo in cui è stata gestita la vicenda degli esodati, ne abbiamo parlato in diretta più volte col presidente dell'INPS, col ministro Fornero, con le cifre ballerine 60.000, 80.000, 130.000, 150.000, come se fosse una cosa normale, diciamo, lasciare lavoratori per un anno, due anni in una terra di nessuno, senza pensione, senza lavoro, è stata una gestione ignobile. È stata una gestione anche un po' spocchiosa, un po' accademica, un po' professorale, un po' che so tutto io. Minuti di nuovo in diretta con la seconda parte di Focus Economia. E allora, come annunciavamo, oltre ai temi con cui abbiamo aperto il programma, e mi riferisco alla bozza del governo, in cui domani, da quello che abbiamo capito, nel Consiglio dei Ministri dovrebbe uscire poi il decreto, o uno dei decreti attuativi, perché per ripagare parte dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Dicevo, al di là di questo, c'è un tema, come ricordavo in apertura, che non siamo riusciti in questi giorni a trattare, ma che è un tema delicatissimo. Riguarda il settore farmaceutico, riguarda anche alcune vicende di carattere internazionale, ogni tanto alziamo anche gli occhi, che hanno visto contrapporsi da un lato la giustizia e quindi una polemica sui farmaci low cost, dall'altro grandi gruppi farmaceutici a livello internazionale. Eh sì, parliamo del settore farmaceutico, che in Italia vuol dire 65.000 addetti e che diventano altri 61.000 se guardiamo all'indotto, 25 miliardi di fatturato. Forse pochi ricordano che l'Italia, dopo la Germania, è il secondo produttore europeo di farmaci. Ne parliamo spesso dell'Italia come produttore di acciaio e di agroalimentare, ma siamo anche il secondo produttore europeo di farmaci. Farmaci prodotti in Italia che vengono esportati per il 65% del totale, quindi sono 16 miliardi e mezzo, 6.000 ricercatori, investimenti in ricerca e sviluppo pari a 2 miliardi e mezzo di euro, in realtà divisi tra 1 miliardo e 2 in produzione e 1 miliardo e 2 in ricerca e sviluppo. Parliamo di industria farmaceutica da un lato per capire come va quella italiana, ma anche e soprattutto perché a inizio mese, quindi qualche giorno fa, vi è stata una sentenza della Corte Suprema indiana che ha respinto il ricorso del colosso farmaceutico mondiale svizzero Novartis relativo al brevetto di un farmaco antitumore. I giudici hanno deciso in sostanza che l'industria indiana locale ha il diritto a produrre il medicinale Glivec come farmaco generico low cost. Questo per salvaguardare il diritto alla salute della popolazione. Il verdetto arriva dopo 7 anni di battaglia legale. Dura la risposta anche di Farmindustria, che per via del presidente, per voce del presidente, ha detto la sentenza uccide la ricerca. C'è stata nel frattempo un'altra sentenza, un altro ricorso, scusatemi, ma non della Novartis, del colosso Merck, che è il secondo produttore di farmaci al mondo. E sempre alla corte di New Delhi per la violazione del brevetto dei prodotti antidiabetici Januvia Janumet da parte del produttore di farmaci generici Glenmark. Tra l'altro sono tra i farmaci più venduti, una platea potenziale di 65 milioni di pazienti. Il brevetto non è ancora scaduto, ma la Glenmark ha sfruttato una clausola nella legge indiana che autorizza l'immissione in commercio dei farmaci generici a 4 anni dal lancio del farmaco di marca, diciamo così. E così ha lanciato due farmaci equivalenti, lo Zita e lo Zitamet, a un costo inferiore del 20%. Allora, il tema qua è delicatissimo, perché da un lato non sfugge a nessuno che il farmaco low cost abbia un interesse, una rilevanza anche sociale, e quindi quando parliamo poi di sanità e di farmaci terapeutici su malattie così pesanti come possono essere i tumori, ma non solo. Ma non sfugge nemmeno che l'industria farmaceutica, per arrivare a sviluppare un farmaco, investe centinaia di milioni nel corso degli anni. Se non c'è una tutela, come per qualunque settore industriale, del brevetto, è chiaro che a quel punto diventa impossibile per l'industria farmaceutica avere un ritorno sugli investimenti effettuati. Vorrei parlarne con il vicepresidente di Farmindustria, nonché amministratore delegato di MSD Italia, Pierluigi Antonelli. Buonasera. Buonasera. Allora, senza così ideologismi, buonismi o altri ismi, però come si tiene assieme l'esigenza di avere anche farmaci low cost, anche e soprattutto in paesi in via di sviluppo come l'India e altri, per cure così importanti, con la necessità di non massacrare quelli che sono gli investimenti dell'industria farmaceutica, che poi rischia di non farli più se diciamo non riesce a rientrare, come qualunque industria fa un investimento per poi coprirlo e guadagnarci magari. L'industria farmaceutica si regge sulla ricerca scientifica e sui brevetti. La ricerca e sviluppo ha un costo. Su base annuale gli investimenti in ricerca e sviluppo del settore farmaceutico sono circa 80 miliardi di dollari. Penso che soltanto la Merck ne investe quasi 9 miliardi di dollari ogni anno, un quinto del nostro fatturato. Ne occorrono per sviluppare un farmaco circa 1,8 miliardi di dollari e si impiegano dai 10 ai 13 anni per portare un farmaco in registrazione, e per un farmaco che arriva in registrazione se ne sono persi 10.000, questa è un po' la media. E quindi naturalmente i costi sostenuti dalle aziende per l'R&D devono alimentarsi necessariamente con i profitti che vengono generati da questi prodotti, perché francamente si tratta di investimenti privati, non pubblici, e quindi attaccare i diritti di proprietà intellettuale significa essenzialmente poi far morire la ricerca, perché non c'è nessuna azienda che potrebbe investire miliardi di dollari necessari all'R&D sapendo che il giorno dopo, tre anni dopo, due anni o quattro anni dopo, qualcuno possa tranquillamente copiare il risultato della ricerca e così entrare sul mercato avendo risparmiato, evitato quella molle, quella massa di investimenti. Ecco, mi scusi, però un ragionamento analogo, per quanto il farmaco intervenendo sulla salute abbia tutto un suo profilo diverso, però un ragionamento analogo potrebbe fare l'industria dell'auto o l'industria dell'elettronica o l'industria anche del design, e cioè purtroppo si viene copiati e abbiamo poi il modello simil abbigliamento di marca, simil automobile di lusso, simil stereo o oggetto tecnologico anche se non del marchio originario, e questo vale poi anche nell'alimentare, vale anche nel design. Cioè, uno potrebbe dire sì, ho capito, però se uno vuole l'originale lo paga, se vuole il generico lo paga di meno, un po' come avviene in altri mercati, no? Sì, mi pare che siano dei confronti un po' difficili da fare, perché lei pensi a quali sono, io ho citato 80 miliardi di dollari di investimenti in R&D, se lei va a vedere quali sono gli investimenti nella moda o altrove, penso che parla le cifre sono molto diverse, no? Molto certo. Diverse. Consideri, le faccio un esempio sulla Merck perché so i numeri di cui parlo, noi abbiamo 8,6 miliardi di dollari, la Apple ne investe 1,5, tanto per darle questo sull'IT. comunque il farmaceutico in generale è il settore che ha l'intensità di R&D più alta tra tutti quanti i settori esistenti al mondo. Dico che poi chiaramente, se facciamo riferimento a paesi in via di sviluppo, esistono moltissime aziende, tra cui anche la nostra, che hanno delle politiche di pricing differenziato. Nel caso nostro, per esempio, noi siamo stati la prima azienda a livello mondiale a lanciare un programma di prezzi differenziati per i nostri prodotti, nel caso del prodotti antiretrovirali per il trattamento dell'HIV. Noi in 60 paesi nel mondo, inclusa tutta la fascia subsahariana, non percepiamo alcun profitto dalla vendita dei nostri prodotti. Per l'AIDS. Fate un esempio per l'AIDS. Ecco, ma come se ne esce? Cioè, la sua soluzione, fermo restando che lei rappresenta l'industria, diciamo, di marca. Nel farmaco, cioè, come si tutelano persone che obiettivamente hanno problemi a comprare farmaci che magari per noi sono più arrivabili, ma sappiamo tutti cos'è l'India, cos'è la Cina, cos'è anche il Brasile, sono paesi in via di sviluppo fortissimo ma ancora con grandi sacche di povertà, con l'esigenza di tutelare poi i vostri, correttamente, i vostri investimenti, non crearvi un danno economico e fare in modo che non si blocchi poi la ricerca. Si cerca di raggiungere, come spesso succede, degli accordi con le singole aziende, ma non è andando ad uccidere la proprietà intellettuale che se ne esce, anche perché nel lungo periodo, se questo è l'approccio che si utilizza, difficilmente verranno poi sviluppati prodotti, quindi molecole innovative, e quindi il beneficio finale a lungo termine per il paziente francamente non lo vedo, perché non c'è un'alternativa, no? Non credo che esista, almeno non la conosco, non esiste una ricerca e sviluppo alternativa a quella privata. Quella che viene fatta a livello pubblico è molto molto molto più bassa, e di conseguenza noi non siamo, bisogna essere anche pochi ipocriti, noi siamo delle aziende quotate in borsa. Ma non sarà che il vostro problema emerge anche e si concretizza perché il farmaco generico low cost è in tutto e per tutto identico a quello di marca? Nel senso che se lei compra un mobile, un oggetto high tech oppure anche un'automobile, noi sappiamo che comunque c'è una differenza tra l'originale e il modello simile, no? Nei materiali, per esempio, per cui uno sa benissimo che, uso l'esempio del mobile perché mi viene comodo, o che il design sarà identico, ma poi la qualità o dell'abbigliamento, la qualità dei tessuti, delle stoffe, delle cuciture è diversa. Non sarà che invece voi siete più esposti perché, essendo il principio attivo identico, di fatto il farmaco è identico, cambia solo appunto la marca e il brevetto? Il generico non è identico ma è equivalente, okay. Quindi ci sono delle differenze. Il problema nostro, come mio, come ma anche nostro come settore dell'IAP, io sono anche chairman delle aziende americane in Italia, credo che il problema nostro specificamente in Italia sia il problema non tanto dei generici ma quanto del fatto che l'innovazione in Italia non entra. C'è consideri che negli ultimi 4 anni su 54 prodotti che sono stati approvati a livello EMA, quindi l'Agenzia Regolatoria Europea, soltanto 14 sono stati poi rimborsati in Italia, con dei tempi che sono del circa 2 anni di ritardo rispetto a quello che succede in Germania, per esempio, o in Inghilterra, e con dei prezzi che sono tipicamente tra il 10 e il 20% più bassi rispetto alla media europea. In un'area come il diabete, che è una pandemia in Italia, parliamo di oltre 3 milioni di pazienti diabetici, i farmaci innovativi sono in Italia, a livello di consumi pro capite, il 90% più basso il consumo rispetto a quello degli altri paesi, le top 4, quindi Francia, Germania, Spagna e Inghilterra. Quindi c'è un problema non tanto di generici ma quanto del fatto che si liberano risorse in Italia grazie alla genericizzazione di molecole, quindi che perdono la patente, ma quelle risorse non vengono reinvestite. Grazie al vicepresidente di Farmindustria, nonché amministratore delegato e presidente di MSD Italia, Pierluigi Antonelli. Grazie a lei. E adesso, dopo le informazioni sul traffico, l'ultimo tema di questa puntata che annunciavamo, ahimè, è un déjà vu più che un tema. Avrete letto, insomma, che la Guardia di Finanza, su indicazione della Procura di Varese, ha aperto un'inchiesta sull'illecito aumento dei prezzi dei carburanti. I reati ipotizzati che hanno coinvolto le compagnie petrolifere Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total, Erg, Kuwait e API riguarda l'ipotesi, appunto, rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi sul mercato, manovre speculative su merci e truffe, e un'accusa anche di truffa. L'indagine, iniziata un anno fa, fu scatenata dall'esposto dei Kodakons sul continuo rialzo dei prezzi della benzina e avrebbe consentito di accertare l'esistenza di un rialzo ingiustificato. Dicevamo dell'accusa della procura di Varese e della Guardia di Finanza alle compagnie petrolifere, appunto, manovre speculative sui prezzi, reati ipotizzati, rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi della benzina sul mercato. Allora, i militari del nucleo di polizia tributaria di Varese hanno prima ricostruito le dinamiche che concorrono alla formazione del prezzo dei prodotti petroliferi, poi hanno esaminato la documentazione acquisita presso le compagnie per ricostruire le variazioni in aumento e anche quelle in calo nel periodo gennaio 2011-marzo 2012. Hanno anche esaminato i documenti relativi alle istruttorie aperte dall'Authority per la concorrenza e il mercato e dal Ministro dello Sviluppo Economico. Hanno poi raffrontato con i prezzi italiani con i prezzi negli altri paesi dell'Unione Europea nello stesso periodo, rilevando prezzi medi in Italia maggiori della media. E la causa principale, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, dell'aumento dei prezzi è attribuibile al ruolo rilevante dei fondi di investimento in commodity e degli ETF sul petrolio, sono fondi indicizzati quote in borsa, che risultano fortemente influenzati da azioni speculative da un lato e hanno attratto investitori in grado di determinare un aumento del prezzo del petrolio pur restando estranei al suo mercato reale. Dall'altro hanno determinato un intervento speculativo da parte delle compagnie petrolifere attraverso operazioni finanziarie con strumenti di finanza derivata finalizzati al mantenimento di prezzi elevati sui mercati del greggio di loro proprietà ai fini di una definizione conveniente dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa. Tradotto, le compagnie petrolifere con operazioni finanziarie altamente speculative, finanza derivata quindi a leva, avrebbero ottenuto il mantenimento di prezzi per loro vantaggiosi e ai fini poi di portare il prezzo alla pompa a vantaggio, con una convenienza per loro stessi. Chi può rispondere a una cosa del genere? Beh, lo ha fatto il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, che ha detto non c'è nessun inganno dell'indagine su poco, ma mi sembra che quanto detto dall'Unione Petrolifera riassuma il nostro pensiero. E allora il presidente, dico mitico anche, Pasquale De Vita, presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, buonasera. Buonasera. Che facciamo, De Vita, un déjà vu o andiamo avanti? Perché ormai è 8 anni che io e lei ci scontriamo e restiamo nelle nostre... Un po', vediamo una volta tanto, questa è una cosa molto grave, quindi ecco. Cerchiamo di essere Esatto. Qui si è mossa non solo l'Authority, che si era già mosso al Ministero, si è mossa la Procura di Varese e la Guardia di Finanza, sì. Che dice, confrontando i prezzi, che ci sono state operazioni non tanto di resistenza, di cartello tradizionale, ma addirittura di operazioni finanziarie sui mercati da parte delle compagnie petrolifere, con strumenti di finanza derivata, quindi in grado di amplificare quello che è l'effetto complessivo, per mantenere prezzi elevati sui mercati del greggio di loro proprietà, in modo da giustificare i prezzi dei carburanti praticati alla pompa. Mi dica. Ma noi quando abbiamo letto il comunicato della Guardia di Finanza siamo rimasti esterrefatti, veramente, anche perché la Guardia di Finanza, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese, ha fatto le indagini, ha fatto il processo e ha individuato già i colpevoli, cosa mi pare molto al di fuori di quelle che sono le sue competenze, perché prima cosa bisogna in questi casi usare prudenza, seconda cosa… Cioè è stata imprudente la Guardia di Finanza? Se mi posso permettere, parlando di un'istituzione dello Stato, in questo caso sì, perché… Non si lanciano accuse di questo tipo come se fossero provate quando si riferisco ad alcuni indizi che con molta prudenza il magistrato di Varese ha messo nero su bianco, ma con molta prudenza. Il comunicato della Guardia di Finanza di Varese dà l'impressione che si sia già arrivati alla fine del giudizio, e questo non mi sembra una cosa corretta dal punto di vista istituzionale. Mi scusi, ma secondo lei la Guardia di Finanza l'ha fatto perché comunque so perché toccare il tema del petrolio crea consenso? Comunque Non sto nella testa della Guardia di Finanza di Varese, so soltanto una cosa, che la Guardia di Finanza di Varese ha individuato anche i colpevoli, e questo è molto grave perché addirittura ha detto che ci sono responsabilità apicali. Quindi abbiamo già deciso tutto. È come se io dicessi che questo, io benevolmente penso infortunio, perché questo deve essere un infortunio, si debba far risalire responsabilità apicali della Guardia di Finanza di Varese. Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere. Quindi mi sembra, penso di essere una persona prudente, ecco, io penso che la stessa prudenza... Però mi scusi De Vita, però la Guardia di Finanza le stesse cose le scrive ogni volta che fa un'indagine, lo ha fatto anche in caso di altri gruppi, e poi esprime nel suo rapporto, dice, noi vediamo responsabilità apicali, che vuol dire dei vertici di queste compagnie petrolifere. Non lo diciamo noi, lo dice la Guardia di Finanza. Discuto il rapporto che ha fatto, la pubblicità data in questa maniera sì. Perché la pubblicità significa che oggi sui giornali le aziende sono già tutte condannate, lei lo sa meglio di me. Allora, in questa situazione in cui le aziende stanno su questo mercato, alcune già con le valigie pronte, altre con grandi difficoltà. Chi sarebbero quelle con le valigie pronte, De Vita? Se ce n'è qualcuna, poi non posso. No, però siccome qua parliamo di cose serie, insomma, Scelta, Moil, Eni, Esso, Total, Erg, Kuwait e API, quale di queste? Qualcuno per esempio si è già disimpegnato in alcune cose, si sono chiuse, chiudere una raffineria, cosa significa? Si è chiusa la raffineria di Roma, si è chiusa la raffineria Tamoil, ha smantellato la parte industriale, è rimasta solo la parte commerciale. Sì, però De Vita, mi scusi, non è che può dire che siccome c'è un'indagine sul cartello, sui prezzi, allora la Tamoil se ne va, paghiamo la benzina più degli altri o creiamo disoccupati, qual è la logica? No, questo è un ricatto, l'abbia pazienza. No, il problema è non alimentiamo ancora un clima di ostilità continua. Siamo obiettivi, io le dico subito che non abbiamo preoccupazioni sostanziali su questa faccenda. Io sono convintissimo, come sono convinti tutti i responsabili delle aziende, che si chiarirà tutto e che non succederà assolutamente nulla, perché non c'è nulla di tutto quello che è stato scritto là dentro che sia provato. Tenga conto che questo settore è il più controllato che esista nel mondo, non solo da noi, anche fuori, perché l'immagine è sempre quella. È stata terminata qualche mese fa l'ultima indagine dell'antitrust, che ha dato le sue conclusioni, è stata un'indagine del Ministero, c'è stata un'indagine europea sul sistema europeo, cioè tutto, che altro vogliono? Vogliamo fare un'altra indagine seria? Ecco, non ci affidiamo però allo studio di un pur nobile professore di informatica dell'Università Cattolica di Milano, che a un certo punto in termini forse... E a chi li chiediamo, De Vita, i dati? Li chiediamo a voi? Come? E a chi li chiediamo i dati? A voi? Massimo, io in questo caso li chiederei alla Commissione Europea, perché è un fatto che mette insieme tante cose, quindi si risale fino al greggio, quindi in questo studio c'è un minestrone di cose, la parte internazionale, la parte greggio, la parte prodotti, ci si capisce poi, io non l'ho letto, ma da quello che ho capito, forse, non l'ho letto, quindi francamente lo legga anche lei, però... Emerge, però gli argomenti sono questi, anche perché De Vita, io devo chiudere, era giusto sentire chiaramente la sua opinione, devo chiudere il programma. Guardi, facciamo una cosa, lei sa che con lei mi scontro a livello epocale, oggi però sono triste, l'ho detto fin dall'inizio del programma, la vicenda dei due pensionati, pensionata una e l'altro no, che si sono impiccati, e della sorella e del fratello della donna che si è impiccata, mi ha obiettivamente colpito, non ho voglia di far polemica, dico semplicemente che però se tutte le imprese e i gruppi rispondessero che la Guardia di Finanza ha esagerato, che non doveva permettersi, che è stato imprudente, così non toccheremmo nessuno in questo paese. Io penso che uno possa indagare, poi se voi non avete nessuna responsabilità, voi come produttore di petrolio, lo dimostrerete nella sede debita, che a questo punto è il Tribunale, visto che è la Procura di Varese. Grazie al Presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì. Radio 24. La passione si sente.